Nello scorso autunno il Circolo Culturale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha avuto la fortuna di poter presentare con l'autore Giuseppe Pantozzi il Minotauro Argentato. È un grande contributo questo Minotauro Argentato alla conoscenza del movimento di resistenza della Val di Fiemme. Quel movimento e quei luoghi che hanno visto coinvolti direttamente anche molti dei resistenti di questa città, della città di Bolzano. Io penso a Corsi, comandante Corsi, Andrea Mascagni, penso ad Avio, comandante Avio, Luigi Emer, penso a Nella Lilli Mascagni, penso a Sandro Bonvicini, a Franco Zadra e a tanti altri. Mesi fa, una signora che è qui, che mi guarda, la signora Pantozzi, ci ha fatto il regalo di una sua visita alla sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e ha portato alla nostra biblioteca, alla biblioteca dell'ANPI, due copie della nuova edizione, di una ricca edizione del libro Sotto gli occhi della morte. Quel libro che questa sera viene presentato. Siamo quindi molto grati alle famiglie di Pantozzi, quella di Aldo e l'altra famiglia, che ancora aiutano l'ANPI nel suo compito di conservare il ricordo e proteggere quella memoria di sacrificio e di riscatto che consideriamo lo scrigno dei valori più profondi della nostra democrazia. Io voglio ringraziare anche la Biblioteca Claudio Augusta che ci offre questa opportunità e il Museo Storico di Trento, editore del volume, che ha accettato la nostra collaborazione. Poi, siccome gli istituti, la biblioteca e i musei sono fatti da persone, da uomini, voglio ringraziare la dottoressa Valeria Trevisan personalmente e personalmente il direttore del Museo Storico di Trento, il dottor Giuseppe Ferrandi. Voglio dire qualche cosa che è fuori dalla mia scaletta, di cui ho parlato con il professor Ferrandi un momento fa. Anni fa, nel 1989, assieme a Luciano Violante, allora dirigente del gruppo senatoriale del DDS, del PC, alla Camera, volevamo ripubblicare il volume Sotto gli occhi della morte. Abbiamo cercato, io stesso sono andato nell'ufficio di Aldo Pantozzi, ci sono stati scambi di lettere e poi una delle cose che non sono riuscito a fare è stato ripubblicare questo volume. E quindi con molta gioia che ho visto il Museo Storico di Trento pubblicare e arricchire questo volume. Giorni fa è arrivata a Bolzano, e ci succede frequentemente, da Torino una delegazione di studenti che erano guidati da Giorgio Ferrero. Chi è Giorgio Ferrero? Giorgio Ferrero è un sopravvissuto di Ebensee, uno dei famigerati sottocampi di Mautau. Ferrero, agli studenti che stavano attorno a noi, ci circondavano, confidava: eravamo tutti giovani, io avevo 18 anni, dice Giorgio Ferrero. Giurammo che quello che si sarebbe salvato avrebbe raccontato l'uomo nell'ambito dei lager. Noi sappiamo che Simon Wiesenthal, che tutti conoscono, le doppie lettere, le SS, si divertivano a schernirci e dicevano: in qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non li crederà. Io ho il piacere stasera e tutti gli anni trascorsi di poter dire che è bastato il più mite dei protagonisti della resistenza al nazifascismo, è bastato Aldo Pantozzi per sconfiggere questa arrogante volontà di distruzione che aveva il nazismo, che avevano le doppie lettere, come le chiamavano, le SS, che guardavano il campo. È una fortuna in via può sconfiggere l'orrore, e noi abbiamo altri episodi, anche vicini. Nel processo al famigerato aguzzino Misha Seifer, anche la poesia Ghetti sono state poste fra gli atti di accusa di quel processo e hanno processato un aguzzino nazista. Così è avvenuto con Aldo Pantozzi, quell'Aldo Pantozzi accidentalmente vivo per il suo latino, come lui stesso racconta nella sua storia. Doctor, doctor, era stata la sua invocazione, in bloc, Julius Caesar, la sua provvisoria salvezza. Così Aldo Pantozzi tornerà e scriverà nell'autunno del 1946 la sua testimonianza, in cui l'Italia liberata dal fascismo sarà la prima documentazione sull'orrore del lager, molto prima di tutto gli altri memoriali. Una testimonianza vera, dirà anche a me in una riunione a Cavalese nell'aprile del 1955, da non modificare neppure di una virgola. Eppure tale testimonianza, proprio in quell'occasione, lui stesso la stava rafforzando preziosamente dal punto di vista storico, come aveva già fatto in scritti precedenti, e altrettanto farà il fratello Giuseppe con il Minotauro argentato, perché anche il Minotauro argentato è il rafforzamento solido di questa testimonianza. Dentro questa testimonianza c'è una parte della nostra storia, della storia degli uomini della resistenza locale al nazifascismo, della storia del lager di Bolzano. Questo c'è dentro, tutto nella testimonianza. Ci sono i tanti nomi di uomini e di donne che Aldo Pantozzi salva con la carezza del suo ricordo. Lui scrive: fra quei chiamati c'erano sei altri concittadini, operai della zona industriale. Io non li conoscevo. Infatti quel convoglio di vagoni bestiame del 1 febbraio 1945 rimase fermo per ore sul binario di via Pacinotti e è partito solo nella notte e trascinava via 630 uomini usciti da quel lager, da quel luogo di sofferenza, verso Mauthausen. Dall'ultimo vagone stipato da 83 persone sofferenti, uno ci racconterà, morirà durante il viaggio molto presto, cadevano dall'ultimo vagone le ultime parole scritte da De Gasperi, le ultime parole scritte da Meneghini. Con Aldo Pantozzi partivano infatti anche sette umili lavoratori, costretti a diventare eroi per poter rimanere uomini, niente altro. Partivano Adolfo Beretta, Tullio De Gasperi, Erminio Ferrari, Decio Fratini, Gerolamo Meneghini, Romeo Trevisan. Noi questi uomini, questi nomi e questi uomini li vediamo, li abbiamo sempre davanti, perché sono stati sono la nostra memoria, è il riscatto che hanno voluto per questa città di Bolzano. Nessuno di loro sarebbe tornato, ma Aldo sarebbe tornato e Aldo avrebbe scritto, avrebbe testimoniato anche per loro, per tutti e sette loro, per Don Narciso Sordo, per tutto quell'orrore e quel riscatto che era uscito da Mauthausen. Domenica scorsa, il 9 maggio, per l'Austria è stato il giorno della memoria, il 59esimo anniversario della liberazione di Mauthausen. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha accompagnato alla visita e alla manifestazione internazionale 36 studenti dell'Istituto Professionale Claudia de' Medici di Bolzano. E ne siamo fieri, siamo lieti, perché è questo che dobbiamo fare. avrei dovuto avere per loro una guida eccezionale, Ferruccio Maruffi, un testimone, un sopravvissuto di Mauthausen, malauguratamente quello non va a rompersi una gamba alla vigilia. Così, con molta preoccupazione, ho fatto io la guida a Mauthausen, tenendo bene a mente la testimonianza di Ferruccio Maruffi, che è un caro amico che ci viene a trovare molte volte a Bolzano, ma tenendo stretto nella mano e aperto l'edizione anastatica che io ho del libro di Aldo Pantozzi. È stata questa la guida all'interno di Mauthausen, professoressa. Posso ben dire che Aldo ha condotto per mano quei giovani studenti a vedere, li ha condotti per mano a pensare. Ecco, laggiù vedete il contorno del Krankenlager, detto anche Ruski Lager. Fu bruciato come luogo inaccettabile quasi immediatamente dai militari americani che avevano liberato Mauthausen. Dopo la visita c'è stata la manifestazione domenica, il giorno della memoria dell'Austria. La manifestazione internazionale è stata imponente, con delegazioni da tutta l'Europa, dalla Francia, dall'Inghilterra, da tutta l'Europa, dalla Russia, dalla Cina, dall'America Latina, da Cuba, dagli Stati Uniti. Le delegazioni dell'Italia erano foltissime e molto numerose. I nostri studenti di Bolzano portavano due cartelli: Mauthausen, memoria dell'Europa, in der Erinnerung Europas ad die Friede seine Wurzeln. Questi erano i cartelli che portavano. Ad un tratto, appena passato il portone per andare sul piazzale, una dozzina di biondi giovanissimi studenti germanici si sono confusi con noi, sono venuti in mezzo a noi, portavano delle rose bianche, ce ne hanno dato una per ciascuno, e con noi, assieme a loro, abbiamo portato una rosa bianca fino al sacrario dell'Austria sul piazzale. Io avevo il libro di Pantozzi che avevo riposto ormai nello zaino, ma sono certo che Aldo Pantozzi, il più mite e schivo dei protagonisti della resistenza al nazifascismo, avrebbe volentieri camminato assieme a noi per tutta la strada. La pubblicazione, la ristampa meglio, dell'opera di Pantozzi a me fa venire due tipi di pensieri, di riflessioni soprattutto. La prima è perché oggi? E la seconda, capire come si colloca quella memoria nel 1946 quando viene pubblicata e cos'è oggi nel 2004, anno della sua riedizione. Perché se non riflettiamo sul ruolo della memoria rispetto a contesti che mutano, rischiamo forse di perdere anche il filo del discorso che una pubblicazione di questo tipo ha. Nel 1946, quando questa memoria viene pubblicata e dovrebbe rappresentare la prima opera di una collana che si chiama Collana dei Redi Vivi, la possiamo ricostruire, ricollocare dentro a quel desiderio, bisogno, forse più che desiderio, sarebbe utile chiamarlo, di raccontare quello che era stato. E attraverso quel racconto costruire una storia comune. Era una storia fatta di sacrificio, una storia della lotta di liberazione, ma era anche una storia di sofferenza, di martirio. E quelli diventavano gli elementi fondativi di una nazione che stava ricrescendo, si stava ricostruendo, si ricostruiva uno Stato, si ricostruiva una democrazia che era stata, che mai esistita in Italia, se non la democrazia liberale dell'Ottocento. Ne parla Calvino nella bellissima introduzione del Sentiero dei Nidi di Ragno, che dice: era bello incontrare le persone per strada, andando in treno, e la gente aveva voglia di comunicare, di scrivere la sua storia, di scrivere il libro comune della sua storia, e raccontando si riusciva a capire che quello che raccontavo io era quello che sentivo raccontare da un altro. Era la stessa storia. Storie singole, sicuramente singolari, ma comuni. In un desiderio di ricostruire, in un desiderio di costruire un'Italia a partire da quelle storie, a partire da quella sofferenza, a partire da quei martiri. E a partire da quel desiderio, da quel desiderio di libertà e di, che in quegli anni inaugurava una nuova stagione dell'Italia. Oggi il contesto è assolutamente mutato. Oggi la memoria, oggi consegnare la propria memoria è un problema. A chi consegno io la mia memoria? Qual è il soggetto a cui io posso tranquillamente dire consegno la mia memoria perché so che attraverso di te io costruisco un disegno collettivo? Oggi la nostra società è assolutamente cambiata. Noi viviamo come cellule, atomi, in una società che ha perso l'idea di un sistema, del disegno complessivo. Siamo, se mi permettete una metafora da computer, abbiamo perso il software. E c'è il desiderio di rivendicare singolarmente la propria memoria. La mia memoria non appartiene a nessuna storia, in un'età in cui anche la storia diventa territorio di contesa. Dove mi riconosco oggi io? Quali sono, anche attraverso le singole festività, la polemica che è venuta fuori, quali sono le festività, dove si riconosce l'Italia, anche in simboli, in singoli eventi? Io credo che forse il senso e il segno di questa pubblicazione sia non tanto forse andare con un discorso ad una memoria che sa un po' di passato, che sa essere il porto sicuro di fronte alle ansie del presente, ma semmai di riannodare un filo, e riannodare il filo dei valori. Valori che vanno custoditi come si deve custodire la cosa più cara, che è un senso di comunità, un senso di riconoscimento, di identità che passa attraverso questo. Può sembrare un discorso passato, passatista, quello che sto facendo, ma se noi abbiamo davanti la società di oggi e ci sono tanto di rapporti del Censis che ogni anno ce lo portano sotto gli occhi, oggi viviamo in una condizione di assoluta anomia. Siamo soggetti portatori di autonomie senza responsabilità. Siamo signorie, ognuno di noi è una signoria senza responsabilità. E ci sono, credo, fenomeni politici che lo dimostrano con molta chiarezza, senza che io debba fare nomi. Ecco, forse questo è lo spirito a cui ricondurre il discorso e la ristampa di questa pubblicazione. E questo è un elemento. Il secondo elemento, credo, è il rapporto che la memoria tesse e intesse con la storia. La memoria, sappiamo, è una storia individuale e illumina in parte, proprio perché è singolare, perché è individuale, in parte quello che appartiene alla storia. Alla storia si lascia generalmente il disegno e la ricostruzione del disegno totalizzante, l'interpretazione. La memoria invece è considerata sempre non dico con diffidenza, ma con molta attenzione da parte degli storici. Il discorso delle memorie della deportazione è un discorso diverso. È un discorso diverso perché Auschwitz è stato il buco nero della storia del Novecento. Non c'è categoria storica che possa spiegare quello che è successo a Auschwitz. Come si può spiegare il genocidio di una popolazione con le categorie della storia? Serve allora la memoria, serve per capire che dentro a quella singola storia, quella storia si può ricostruire. Nel passato di ogni singola vittima, nel passato di ogni singolo tragico avvenimento di quella storia, la storia si ricostruisce. Ormai del fenomeno dei campi di concentramento se ne è occupata la scienza storica da un pezzo. Però senza questo tipo di importante apporto, quella storia sarebbe priva di un elemento fondamentale. Non a caso la storia si ricostruisce, la storia del fenomeno concentrazionario si ricostruisce nell'immediato dopoguerra dalle testimonianze degli internati. Un politologo come il francese Cogon, per 7 anni a Buchenwald, appena uscito dal campo di concentramento, scrive quello che ricorda del suo internamento. Rousset, scrive nel 46 anche del suo internamento. E sono i primi racconti importanti che permettono poi, attraverso anche i processi, a acquisire testimonianze, documenti, che poi su questi si costruisce la storia, si è costruita la storia del fenomeno concentrazionario. Quindi le memorie sono un dato ineliminabile e fanno storia, sono documenti della storia. Proprio perché la storia del campo di concentramento, la storia del fenomeno dell'universo concentrazionario non è spiegabile altrimenti senza le singole testimonianze, al di là del valore di testimonianza che hanno. Come già stato ricordato, Pantozzi scrive Sotto gli occhi della morte nel 46, cioè viene pubblicato nel 46. Lui è all'ospedale del CAR di Bolzano e durante la sua degenza sistema i suoi appunti. E viene pubblicato, e nell'introduzione viene anche detto, viene pubblicato anche per un anniversario, che è l'anniversario dell'uccisione di Longon, cioè quindi l'arresto del CLN, quindi è una sorta di anniversario che celebra anche la lotta di liberazione, quello che è stato la resistenza in Alto Adige. Ma tornando a quanto si diceva prima, a proposito della memoria della storia, dell'importanza che la memoria ha avuto per la storia, ha avuto un'importanza determinante che per ricostruire il fenomeno del lager di Bolzano. Senza le testimonianze che ci sono state non sarebbe stato possibile arrivare alle conoscenze che, per quanto frammentarie ancora oggi abbiamo, è possibile sfogliare. Nell'economia di questo mio intervento ho pensato, visto che Pantozzi per il lager c'è passato, ho pensato di, molto brevemente però, di aggiornarvi un po' sullo stato delle ricerche del campo. La cosa curiosa è che il campo è stato riconosciuto come un campo di concentramento attraverso un atto amministrativo. Nel 1977 in una gazzetta ufficiale è stato riconosciuto il Durchgangslagerbozen, polizeiliches Durchgangslagerbozen, come campo di concentramento. Noi sappiamo che, insomma, pur avendo questa definizione di campo di transito, lo sappiamo grazie al processo Seifert, ma non solo, il lager di Bolzano è stato anche un campo dove ci sono state morte, torture e stragi. Lo sappiamo anche da una storia che ogni tanto è utile ricordare a proposito di Aguzzini. Nel campo è stata attiva come aguzzina Hilde Lechert. Hilde Lechert era una aguzzina, è stata prima aguzzina del campo di Majdanek, un campo in Polonia. Veniva chiamata la Blutige Brigitte. Oltre ad aver ucciso lei di persona attraverso i cani che usava, era detta alla selezione. E da quanto si sa dal processo che è stato celebrato, in cui lei era un'imputata, lei lasciò il campo di Majdanek ufficialmente perché doveva sposarsi, perché era incinta. Ma testimonianze dicono che l'avessero addirittura allontanata perché era troppo brutale nei confronti dei prigionieri. Di questo era fatto il lager di Bolzano, anche di queste persone. Quindi non un semplice campo di transito come a volte si tende, o qualcuno ha pensato di svilire, per così dire. Del campo di Bolzano si sa ormai abbastanza. Del campo di Bolzano ancora due aspetti rimangono poco chiari: l'inizio sostanzialmente e la fine. La fine è stata illuminata dalle ultime ricerche di una sudtirolese di lingua tedesca, Barbara Pfeiffer, che ha sostanzialmente confermato attraverso i suoi studi che il campo si autosciolse grazie al fatto che era stato, c'erano stati degli accordi in un'operazione, un'operazione tenuta segreta, l'operazione Sunrise, in cui gli alleati si erano semplicemente accordati, avevano cercato, i tedeschi avevano cercato un accordo per uscire possibilmente indenni da questa storia, rilasciando i prigionieri. E questo avvenne, i primi prigionieri furono lasciati il 26 aprile e poi il 30 di aprile il campo passò alla Croce Rossa, quindi in 4 giorni sostanzialmente erano le SS che timbravano i certificati di rilascio, ma non perché fossero buoni, insomma, evidentemente c'era un accordo scritto o comunque un accordo già preso in precedenza. Per quanto riguarda l'inizio, invece, l'inizio del lager, ancora le conoscenze sono assai frammentarie. Si sa comunque che Georg Mott, che era il comandante del lager di Reichenau di Innsbruck, fu comandato nel gennaio del 1944 a studiare la possibilità che anche a Bolzano ci fosse un lager di internamento per detenuti politici, perché le carceri del Quarto Corpo d'Armata erano piene. Mott arriva, questa testimonianza che lui ha rilasciato al processo viene confermata anche da Tito e dal comandante di Mott, Tirolhof, che era il responsabile, il comandante del Quarto Corpo d'Armata, l'SS, che dice che aveva chiamato, in qualche modo gli era stato dato Mott per questa operazione e che lui, insomma, si fidava molto delle sue capacità professionali per fare questo tipo di lavoro. Pare quindi che insomma, il lager fosse aperto, fosse comunque in allestimento già dal gennaio, tra il gennaio e il marzo, e che abbia iniziato già una sua attività, aveva già degli internati sostanzialmente prima del trasferimento di Fossoli a Bolzano. Lo possiamo ricostruire attraverso anche alcune testimonianze. Sappiamo anche di che tipo di popolazione fosse composto il lager di Bolzano, ma io credo che, senza dilungarsi troppo, anche perché probabilmente la storia del lager, grazie anche alle tante iniziative che in questo ultimo periodo, anche grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, sono state messe in piedi, forse è più importante dare spazio poi al volume che viene presentato. Io mi limito semplicemente a dire questo. Il periodo in cui il lager entrò in funzione fu un periodo caldo della fine della guerra, e un periodo in cui i partigiani, non solo i partigiani, furono internati in tutti nei campi di transito italiani, anche in quelli di sterminio, nel contesto di una situazione dell'immediato, di fine guerra, assai critica. Nell'autunno del 1944, come sapete, era iniziata una controffensiva alla linea Gustav, un'offensiva degli alleati che non riuscì a sfondare la linea tedesca, tanto che il generale Alexander disse ai partigiani: rifugiatevi nelle montagne, non è possibile per noi andare avanti. E questo diede forza alla repressione, non solo nazista ma anche fascista, per cui ci fu la caccia, iniziò la caccia al partigiano. Il lager si riempì in quegli anni, e è interessante notare come la popolazione, gran parte, la maggioranza della popolazione del lager, fosse composta o da ostaggi o da rastrellati, prigionieri, soprattutto politici, in gran parte politici, che venivano dalle grandi aree urbane, Genova, Milano, e questo dà anche il senso di quanto forte fosse la resistenza, quanto forte fosse anche la presenza partigiana all'interno delle fabbriche, all'interno di quelle aree urbane in cui effettivamente era molto più difficile operare che non in montagna. E poi quanto altro forte fosse la resistenza nelle montagne vicine, nel Bellunese soprattutto, dove nel lager di Bolzano finirono molti deportati. Io terminerei sostanzialmente qui. Un'ultima notazione è relativa all'interesse crescente che la storia del Lager di Bolzano e in genere il fenomeno concentrazionario ha nella pubblica opinione. E la cosa che a me personalmente interessa qui in qualche modo confermare o ribadire è che si stanno interessando di questa storia anche molti concittadini di lingua tedesca, e credo che questo sia un segnale non da poco, a dimostrazione che insomma, al di là delle storie singole, delle singole identità, ci siano dei momenti della storia anche tragici che possono accomunare e costruire quella, diciamo, quella storia comune che, vista con necessario distacco che ci vuole, però forse ci aiuta a fare qualche passo in avanti, ci emancipa forse anche da qualche retropensiero, retrodiscorso che dietro a queste storie generalmente ogni tanto si alimenta, ad arte a volte inconsapevolmente. Grazie. Sono Mirta Pantozzi, sono la figlia minore dell'autore. Io voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla pubblicazione di questo scritto, in particolare mi rivolgo al Museo Ferrandi, all'ex direttore Calì, alla professoressa Danaiger, al dottor Tajani, a tutti i presenti, in particolare anche all'assessore Cigolla e al presidente dell'ANPI Bertoldi e in ultimo al professore Mezzalira. E mi è stato chiesto di parlare di mio padre come figura umana in merito a questa vicenda. Questa richiesta ha suscitato in me una sensazione duplice. Infatti noi figli dei deportati dei campi di concentramento nazisti abbiamo ereditato dai nostri genitori protagonisti di questi avvenimenti il loro stesso atteggiamento, cioè da un lato c'è un forte desiderio di rimozione nei confronti di questi avvenimenti di una tale portata di violenza, di orrore e di crudeltà da rimanere scolpiti nel DNA anche di noi figli, che anche se non abbiamo vissuto direttamente questi avvenimenti, però riportiamo dal vissuto dei nostri genitori incredibilmente ancora il segno di queste ferite. E come anche una volta mi è capitato di sentire da un professore dell'Università di Varsavia di sociologia e di psicologia, il quale appunto proprio parlava di questo marchio quasi anche sui figli, come se il segno di questa crudeltà rimanesse come un segno indelebile anche nelle generazioni successive. E speriamo che veramente che dopo questa generazione la cosa si fermi qui. E comunque accanto al sentimento di rimozione e di ritrosia si fa però anche prepotentemente strada, come per i protagonisti di queste vicende, il senso profondo dell'adempimento del dovere della memoria, il dovere della narrazione, il compito che per me in questa circostanza particolare si fa anche più forte dal momento che mio padre non può essere qui con noi quest'oggi a raccontarci di persona le sue sensazioni e... Ecco, dunque, quindi io per essere in tutto e per tutto più vicino a lui e quindi per riportare più da vicino a voi il suo modo di sentire, mi riporterò anche alle sue stesse parole che sono state pronunciate in occasione di una commemorazione che c'è stata l'8 aprile del 95, una commemorazione della resistenza in Fiemme. Ecco, queste sono parole di mio padre. Per noi superstiti delle nostre crudeli esperienze è difficile e angoscioso parlare, è però doveroso farlo, per me almeno una volta dopo 50 anni, non per riaccentuare posizioni di parte, ormai in ogni loro aspetto scandagliate dalla storia, ma perché l'umanità non cada ancora nei baratri della ferocia, della persecuzione, dell'inumano, nei quali li fece precipitare l'autoritarismo ed il razzismo, figli mostruosi del fascismo e del nazismo. Noi superstiti dei campi di sterminio nazisti siamo concordi nel dire si può, forse si deve personalmente perdonare ed il perdono è sempre un fatto singolo, un motto personalissimo del proprio animo, ma non si deve dimenticare. Solo se non si dimentica e solo se le nuove generazioni vengono a conoscere e a giudicare certe barbarie, si può sperare che esse non abbiano più a ripetersi nel mondo. Ecco, mio padre si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1942. Nel settembre del 1943, dopo i primi bombardamenti, si sfollò a Cavalese in Val di Fiemme con la sua famiglia. Riporto qui ancora di seguito alcune parole di mio padre. A Cavalese, dice, iniziai a insegnare diritto agli studenti locali e sfollati dell'ITC. Tra i professori si sviluppò ben presto un centro di resistenza. Soprattutto pensavamo al destino dell'Alto Adige, che poi, non a caso, venne consegnato ai partigiani italiani. Alla fine del novembre del 1944, per una delazione di un infiltrato trentino, le SS riuscirono a scoprirci. Circondarono il paese, arrestarono me, Leoni, Tosca, tre frati del convento, tra i quali padre Costantino Amort, poi morto a Mauthausen. Dunque, la stesura del libro di mio padre venne, come abbiamo visto, subito dopo il suo ritorno. Cito ancora alcune sue parole per capire come nacque questo libro. Egli dice, me lo richiese il libro il presidente di un'opera pro orfani perseguitati politici, come il primo numero di una collana che ebbe poco seguito, perché poco dopo il detto promotore della collana editoriale lasciò Bolzano e di lui non si seppe più nulla. Di lui però mi è rimasto un ricordo. Un giorno mi disse che aveva spedito il mio libretto alla cancelleria del processo di Norimberga. Questo iniziò, come è noto, nel settembre del 1945 e durò circa un anno. In un'intervista al quotidiano Il Mattino del 31 marzo del 90, mio padre disse di questo suo libro queste parole: questa pubblicazione, uscita nel gennaio del 1946, fu una delle pochissime, se non l'unica pubblicazione apparsa prima del processo di Norimberga. Solo in quel processo si iniziò a parlare di quelle nefandezze. Noi non conosciamo l'uso che si fece di questo scritto al processo, però sappiamo che è rimasto un documento agli atti del processo stesso. Ed è unicamente, infatti, per tale motivo che mio padre, in una sua lettera dell'agosto del 95 a Roberto Antolini, che era il segretario di redazione della rivista Archivio Trentino di Storia Contemporanea, scriveva: «Sono conscio, sia pur con tutta la modestia, che questa mia vecchia testimonianza, per la data in cui è stata resa, è ora entrata a far parte della storia della resistenza e della deportazione». Per uno strano destino, in seguito a un incidente stradale sulle dissestate strade del dopoguerra, le copie di questo libro, che erano state stampate a Bolzano presso la tipografia Maritz, e che dovevano essere portate a Milano perché venissero lì edite e date alla distribuzione, andarono quasi tutte distrutte. Infatti l'autoveicolo che le trasportava e che viaggiava quel giorno sotto una pioggia battente, in seguito al sinistro, rovesciò tutto il suo carico. La strada era piena di pozzanghere, quindi il carico andò quasi completamente perso. Se ne salvarono pochissime copie che mio padre riuscì a stento a recuperare. Ma fu proprio in seguito a questo incidente che egli ebbe un ripensamento. Forse quell'incidente non era avvenuto per caso, forse non era quello il momento storico più adatto per la divulgazione di questo scritto. E qui vi riporto le altre parole di Roberto Antolini, che ricito, per una descrizione che ben fotografa in sintesi il momento storico nel quale mio padre si trovava in quei giorni. Questi redivivi hanno poi dovuto affrontare nella più completa solitudine il mondo del dopoguerra, che voleva solo dimenticare, far finta di non aver visto, fingere di credere che tutto questo non si sarebbe più potuto ripetere. Mio padre, che devo dire è sempre stato un attento e acuto osservatore della realtà, fu ben conscio di tutto ciò e preferì momentaneamente accantonare questo suo progetto di pubblicazione, considerando che sarebbe stato meglio attendere. Bisognava infatti aspettare il cosiddetto tempo del ripensamento storico. Ma di qualcuno si preoccupò immediatamente, in particolare dei giovani affinché sapessero al più presto e potessero documentarsi su queste vicende, e quindi distribuì le copie di questo suo scritto in posti come per esempio la biblioteca del Liceo Classico Carducci di Bolzano, che egli stesso aveva frequentato, in posti che fossero accessibili appunto a questi giovani e da loro vicini per poter documentarsi su queste cose. Dunque, per quanto riguarda poi la figura umana di mio padre, io devo dire che credo che la lettura di questo testo, che è poi prettamente autobiografico, lasci trapelare molto della sua personalità. E per quanti lo hanno conosciuto, penso che ritroveranno un certo senso di autoironia che lo contraddistingueva, per esempio nella parte dove riesce a sorridere insieme ai suoi compagni delle loro teste rasate, o dove fa degli accenni a quei valori semplici nei quali ha sempre creduto, tipo la cucina, cioè, ci sono dei riferimenti a un'insalatina di pomodori a un certo punto anche nel libro, e quindi al di là di questi aspetti più, diciamo, suoi precipui, credo che comunque per quanto riguarda i valori nei quali egli ha creduto, credo che egli sia sempre rimasto abbastanza coerente con questi e che con la maturità egli abbia semplicemente rafforzato i valori nei quali già credeva a quel tempo, e che attraverso il filtro dell'equilibrio e della maturità abbia poi appunto abbia potuto rafforzare quegli ideali in cui credeva, e quegli ideali che anche in questa immane sciagura lo avevano travolto. Infatti, come lui stesso dice sempre in un'intervista, sono parole sue, è lì in quei mesi terribili che ho veramente capito il valore della democrazia, il rispetto di ogni ideologia, di ogni razza, di ogni religione. Nella dedica iniziale del libro di mio padre, gli scrive, tra l'altro, che dedica questo libro, oltre ad alcuni personaggi, poi più in generale, alle, così dice testuali parole, alle decine e decine di compagni di tutte le nazioni europee che, stretti a noi nei nostri giacigli, esalarono l'ultimo respiro per la stessa causa dell'umanità. Credo che questa frase racchiuda in sintesi il senso che questa vicenda aveva avuto per quei deportati, cioè la lotta compatta dell'intera Europa contro un nemico inumano. Questo infatti credo possa essere definito il nazismo. Purtroppo questa lotta all'inumano pare che non sia cessata. Gli sconvolgenti filmati e le fotografie che ci giungono anche in questi giorni dall'Iraq ci rimandano tristemente delle analogie che noi non avremmo mai voluto fare. Pare proprio che anche il sacrificio di questi nostri predecessori sia stato vano. Io lo scorso giovedì 13 di questo mese sull'Alto Adige ho letto un articolo dello psicologo Giuseppe Maiolo che mi ha molto colpito, l'ho trovato molto interessante. Egli si interroga sul mostro sonnolente, così lo chiama, sull'aguzzino nascosto che dorme dentro ciascuno di noi. Parla di studi di psicologia datati più di 30 anni che dimostrano quanto sia possibile, sotto la pressione dell'autorità, queste sono sue parole testuali, e nei contesti di un'istituzione forte, far emergere il torturatore, l'aguzzino interno che rinuncia al controllo del suo potenziale distruttivo perché riduce la sua responsabilità e giustifica il suo comportamento in quanto derivante da ordini ricevuti. Ma la consapevolezza, continua Maiolo, che ci viene da queste osservazioni rigorose, dovrebbe farci capire che c'è una nostra violenza interna, del nostro aspetto sadico che ci portiamo appresso come un'ombra notturna alle nostre spalle. Solo in questa visione si possono spiegare tutti gli orrori quotidiani, gli episodi di violenza di qualsiasi tipo essa sia che vengono perpetrati nei confronti dei più deboli, e anche per esempio la disumana pratica della pena di morte nel nostro civilissimo Occidente. Io concordo pienamente con Maiolo e concordo soprattutto nel suo invito a meditare e non solamente a sconvolgersi di fronte a queste immagini, ed ancora di più a cercare nel quotidiano tutti i mezzi possibili per sviluppare una diffusa cultura della non violenza che riesca finalmente ad annientare questo aguzzino nascosto in ognuno di noi. Ecco, permettetemi di concludere con un accenno al perdono cristiano che viene contenuto nelle conclusioni del libro di mio padre. Io mi sono sempre chiesta, e poi ho ritrovato anche appunto nelle pagine dell'introduzione della professoressa Neiger, un accenno appunto al perdono umano, e mi sono sempre chiesta come fosse possibile da parte di questi deportati riuscire veramente a perdonare i loro aguzzini. Con un perdono veramente sincero e totalizzante, non con una semplice forma di buonismo. Ho trovato una parte.